Sono Graziella Battistin, un ex insegnante di scienze del liceo Viosseux di Imperia e sono stata referente del presidio Montalbano di Libera al liceo dal 2013 al 2019. L'altra pandemia. Nei paesi più poveri il coronavirus provocherà una catastrofe. Se non possiamo impedirla, dobbiamo almeno immaginare un futuro diverso. Vi ho letto titolo e sottotitolo preso dall'Internazionale del 10-16 aprile del 2020 di una scrittrice, giornalista, attivista politica impegnata nel campo dei diritti umani, dell'ambiente, dei movimenti antiglobalizzazione, che si chiama Arundhati Roy. Un punto di partenza su cui costruire questa piccola occasione di riflessione. Lei, se vi invito ad andare a leggere tutto l'articolo, è un personaggio coraggioso, determinato, discusso anche, che di se stessa dice: io sono isterica, io sto urlando dai maledetti tetti, voglio svegliare i vicini, voglio che tutti aprano gli occhi. Allora, io non è che voglio niente, io vi invito come invito me stessa, invito anche voi a leggere non solo questo articolo, quelli indicati nel file, e poi magari a cercare altro su questo tema, l'altra pandemia, cercare altro confrontandoci anche con noi stessi prima, con adulti, con coetanei, perché no, anche con bambini. Perché prima di pensare all'altra pandemia, io direi che bisogna, attraverso poche domande, ma belle sostanziose, riflettere, non solo studiare che cos'è un virus, ce l'hanno detto in tutte le salse, che cos'è il coronavirus in particolare, anche se è giusto e opportuno conoscere queste cose, ma fermarsi a riflettere sull'esperienza che abbiamo fatto, che continuiamo a fare. Come la stiamo vivendo nel nostro privato? Vi invito a scrivere proprio se nella vostra vita individuale è cambiato qualche cosa, se avete scoperto qualcosa in voi o negli altri, nelle persone a voi più vicine. Non che sia facile rispondere su noi stessi, siamo molto distratti da tante cose, anche sciocchezze quotidiane, anche in questi giorni, forse anche dalla noia. La noia ci distrae dalla vita spesso. Dopo però aver riflettuto un po' proprio in modo individuale, invito me e voi ad allargare la riflessione oltre la vita privata, a pensare alla nostra comunità, anche alla nostra città, alla nostra nazione, quindi allargare via via lo sguardo, anche se l'obiettivo poi finale, si capiva dal titolo, è quello di confrontarsi con un mondo noi più lontano. Lontano non necessariamente solo in senso geografico, ma voi sapete che purtroppo c'è uno strano silenzio in questo periodo, ci sono case piccole, con problemi economici, con malati, con bambini piccoli, con violenza. Ma vedremo, finito tutto, cosa emergerà. Però allarghiamoci, oltre ciò ce ne sarebbe abbastanza, ma oltre ciò andiamo oltre. Come stanno vivendo in posti lontani da noi, dove magari ci sono state altre epidemie anche abbastanza recentemente o ci sono tuttora, ma non ci hanno toccato così tanto, ovviamente. Ovviamente si va per dire, solo perché non ci hanno colpito direttamente. Come stanno vivendo in Africa? Ci sono alcuni articoli che vi ho proposto. Come stanno vivendo in India? Ecco, l'articolo della scrittrice di cui prima è veramente terribile, sulla condizione indiana. Come vivono dove hanno guerre, dove non hanno acqua, dove ci sono dittature, dove c'è, insomma, la vita è veramente molto molto difficile. Pensate a vivere in una baraccopoli, ecco, noi ci lamentiamo, ci annoiamo. dopo aver cercato informazioni, non come vagamente pensiamo che possano aver cercato, almeno in un caso, in una nazione, cercato informazioni su cui riflettere e confrontarci, e aver capito che anche l'ignoranza e la prepotenza fanno ciò che le epidemie non fanno, no? Concludo nel lavoro, ma qui si aprirebbe un altro discorso molto più ampio, adesso lasciamo perdere, cioè in un'ora non si può certo pensare di aprire troppi argomenti. Dopo aver visto queste cose, quindi da noi ha allargato lo sguardo, allargato fino al mondo intero, allarghiamoci al futuro, quindi non nello spazio ma nel tempo. Siamo sicuri che passata l'emergenza il nostro mondo sarà come prima? Sì o no? Anche perché non esiste solo il coronavirus. Riflettiamo anche sulle condizioni ecologiche del nostro pianeta. Voi sapete, ci hanno fatto, prima del coronavirus avevamo i cambiamenti climatici, il tormentone, no? Era quello, però in effetti deforestazione, desertificazione, inquinanti, distruzione della biodiversità, eccetera, agricoltura intensiva. A proposito di questi discorsi, c'è uno scienziato che ho scoperto in questi giorni, che si chiama Jean-François Guégan, epidemiologo, direttore di un istituto di ricerca francese sull'ambiente, l'alimentazione, l'agricoltura, il quale scrive che negli ecosistemi più ricchi molte specie di fronte al virus svolgono un ruolo di filtro, quindi un ruolo epidemiologico, un ruolo di barriera. Piccolo tassello di un grande quadro, no? Noi tra le altre cose proprio non solo abbiamo indebolito il nostro sistema immunitario, ma indeboliamo un'immunità globale del pianeta. Lascio a voi tutte le riflessioni, arriviamo alla conclusione. Io penso, poi non so, vedrete voi cosa pensare, che sia diventato veramente fondamentale e ormai assolutamente urgente chiederci non solo perché dobbiamo cambiare, perché non sono affatto convinta che tutti vogliano veramente cambiare, ma io direi, oltre al perché, cosa vogliamo cambiare? Vogliamo, dobbiamo? Come vogliamo, dobbiamo? A cosa siamo disposti a rinunciare? E altrettanto importante, a che cosa non dobbiamo assolutamente rinunciare? Che a rischio è grosso. Pensiamo a quali sono i veri valori, i veri bisogni. Ultima domanda, lo possiamo fare da soli, solo io per me, per la mia famiglia, per la mia città, per la mia nazione. Forse, non lo so, anche il nostro egoismo dovrebbe farci riflettere sul fatto che siamo tutti su una stessa barca e nessuno si può salvare veramente da solo. O forse sì, forse ci si può anche salvare da soli. Il problema è che probabilmente poi soli si rimane. Pensiamoci, buon lavoro.